E eccoci qua con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola condotto da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Ci vuole un po' più di enfasi su, dai. Siamo quasi a metà stagione, forse. Devo recitare il copione a memoria, dopo un po' la perdo l'enfasi. Comunque, quella che avete sentito prima della mia voce è la nostra sigla, ovvero Happy Days del sito purpleplanet.com. E probabilmente ci state ascoltando su Radio Big World o sul canale SoundCloud di Radio Big World. E se è la prima volta che state ascoltando, dovreste sapere che questo è un programma che parla di giochi da tavolo, una categoria di intrattenimento ludico che negli ultimi anni è esplosa e ha invaso il mercato. Questo episodio in particolare è il seguito dell'episodio della settimana scorsa, dove parlavamo dei giochi nella nostra wish list, ovvero dei giochi che noi vorremmo comprare. E che anche voi dovreste comprare. Ok, va bene. Per chi si è perso l'episodio della settimana scorsa, lo può trovare su Radio Big World, nella pagina del nostro podcast. Quindi, senza indugi, andiamo avanti a parlare dei giochi della nostra wish list. Inizio io, Claudio. Va bene, tanto alla fine dei conti. Va bene, inizio io con qualcosa di breve. Allora, anche la settimana scorsa avevo portato un gioco che ho scoperto tramite il sito di Gamecrafter, ovvero un sito in cui gli autori di giochi, indipendenti possono, caricare il materiale del loro gioco e metterlo in vendita in print on demand, ovvero ogni volta che una persona vuole acquistare una, 7 o 100 copie del gioco, Gamecrafter le confeziona e le spedisce. Ho già spiegato nello scorso episodio come funziona Gamecrafter, quindi non ci dilunghiamo. Comunque, quindi, in sostanza, quello di cui stiamo parlando è un gioco indie. E il gioco è Sultans and Kings, un gioco ambientato durante il periodo delle crociate. Quindi un periodo che a me piace molto. E è un gioco in cui i giocatori prendono o due, è un gioco intanto da due fino a due, non ce la posso fare. Un Da gioco da due due, giocatori. Da cosa? No, due giocatori. da due a quattro giocatori. Due Ok. o quattro giocatori che tentano di conquistare il più possibile la Palestina, sostanzialmente. Quindi ci saranno le città più importanti del periodo delle crociate, i vari regni crociati, Acri, Gerusalemme, Aleppo, Antiochia e così via. E alcuni giocatori controlleranno le forze dei saraceni, altri le forze degli europei. Il gioco di base è molto semplice. A seconda di quante città sono controllate, ottieni una produzione di punti da poter spendere per comprare altre unità o pagare il riscatto di unità che sono state catturate, quindi i nobili, i re, i sultani. Di base il gioco è semplicemente un gioco di espansione e di combattimento. L'unica cosa che dà un po' di variabilità a tutto ciò è l'uso di carte combattimento e carte strategia, che rendono variabile un gioco che altrimenti sarebbe un wargame proprio old school, soltanto con statistiche fisse. Quindi di base è un gioco di espansione di guerra molto semplice, di dimensioni ridotte, che dura un numero contenuto di turni, massimo la partita dura poco più di un'ora. E mi piace sicuramente per la sua meccanica, che adoro, adoro questo tipo di meccanica. E soprattutto per l'ambientazione e i disegni che sono proprio nelle mie corde. Per adesso il gioco dovrebbe essere disponibile solo su Gamecrafter, però vedo che c'è anche un'ESMA Production, forse in qualche stato. Allora, è uscito nel 2015 questo, quindi già ha un anno. Però sì, se tu vai a cercare comunque, non... sì, è nel 2015, Sì, pubblicato nel no, 2015. no, dicevo un'altra cosa. Però sì, c'è solo una prima edizione. Sì, è uscito si può ordinare soltanto tramite The Gamecraft, dove c'è anche la prima espansione che si chiama Missions. E appunto, come dicevo l'altra volta, purtroppo The Game Crafter, essendo un print on demand, ha dei prezzi molto alti. Infatti, un gioco di queste piccole dimensioni costa ben 40 dollari, più spedizione per noi poveri italiani. Inoltre, i materiali usati da The Game Crafter sono abbastanza bruttini, diciamo, per il prezzo che ha il gioco. Però, essendo un gioco Sì. indie, è l'unico modo per averlo è questo, quindi poco da fare c'è. Devo dire che un giorno potrei fare l'investimento e ordinarlo pagandolo quello che costa, perché secondo me ne vale molto la pena. Dipende da tanti fattori, non si può mai sapere, magari può anche essere fatto ristampare da qualche casa produttrice, non si può mai sapere. Sì. Dipende dal successo che farà il gioco. Ad esempio il gioco di cui parlavo la volta scorsa di The Game Crafter, che era The Captain is Dead, è stato uscirà ad aprile in versione retail da un editore anche parecchio grosso, tra l'altro, che distribuirà in tutto il mondo, quindi... Mentre in altri casi molti giochi sono ripresi su Kickstarter, come un esempio classico è Blood Rage, che inizialmente era un gioco con i cubetti e non aveva le miniature ultra belle di Culmirior Note. E se pensate a un gioco con Blood Rage con i cubetti, penso che non avrebbe avuto lo stesso successo che ha avuto con le miniature. C'è da dire che Giusto? sì, sicuramente. Cioè, ormai le miniature sono diventate la differenza tra comprare un gioco piuttosto che un altro, perché molti giochi sono tutti uguali, però uno ha le miniature e allora vende rispetto all'altro. Comunque, quello che volevo dire è vero che costa 40 dollari, però... Meglio avere un gioco indie, cioè aiutare un creatore di giochi indie e avere un gioco raro che sarebbe introvabile, piuttosto che comprare un German o anche un American qualsiasi da 40 euro che giochi una volta e poi sta lì nello scaffale, perché capita spesso. Però sai qual è il problema? Il rischio. Ci può essere un problema di fondo. È il Che è? rischio, perché i giocatori da tavola la maggior parte delle volte vogliono sapere a cosa stanno andando incontro. E dato che questo è un gioco di nicchia, bisogna che qualcuno lo compri e faccia un video dove ti spiega il regolamento. Il Cioè, tu devi creatore proprio vedere almeno un gameplay, qualcosa. c'è il video, Sì. il creatore del gioco ha caricato su YouTube la spiegazione del regolamento, ecco. Quindi in realtà se Ok, uno quindi proprio allora va. vuole sapere com'è il regolamento, c'è nel canale YouTube di Firas Eladumidaci, Sì, ci sono, c'è la deve essere spiegazione del gioco. una Sì, persona molto ok. italiana. Basta andare sulla pagina di The Game Crafter di Sultans and Kings e c'è il link ai video. Ecco, facciamo prima così che a dire il nome del creatore. Scusate, è Sì. partito il video, la musica del video che stavo guardando. Ha anche girato bene il video. Quindi, se siete curiosi, vi consiglio di guardarci e di dare un'occhiata a Game Crafter, perché ci sono giochi che meritano più, anche più di giochi che sono invece sul mercato, perché sul mercato sono anche delle porcherie che costano uguale, ma sono delle porcherie. Va bene, basta. Claudio, vai avanti, Sì, è vero. altrimenti non ne usciamo più. Va bene, tocca alla mia porcheria. Allora, Sì, la tua porcheria. è un gioco del 2014. Ovviamente è porcheria per il tema, però il gioco sembra molto interessante. È un Kickstarter, è stato, che adesso ha varie espansioni, tra le quali una trasforma il gioco in un gioco cooperativo, ma essenzialmente è un gioco dove ognuno cerca di sopravvivere per conto suo. Parlando di sopravvivenza, ovviamente vi verrà a pensare al classico tema che è andato in moda negli ultimi tempi, che è l'apocalisse zombie, e questo è Run, Fight or Die. Un gioco stranissimo, molto simile a Dead of Winter per la sua stramba comicità, cioè semiseria ma da film trash. Un gioco che prende soprattutto per il tema, è pieno di miniature tutte uguali di zombie, che sono la cosa che gonfia il prezzo, e infatti diciamo che è la cosa più ridicola del gioco. Si poteva fare anche a meno di questi e mettere dei token. Ma se tralasciamo questo fatto, il gioco è un push your luck, o press your luck, dove devi tirare vari dadi, e devi decidere come gestire la distanza tra gli zombie e il tuo personaggio. Quindi ogni giocatore avrà un personaggio eccentrico, che può essere la pollastrella sexy, o il contadinaccio, o il ragazzino curioso, e con delle varie abilità, un set di dadi. e tre zone di distanza tra cui i zombie si avvicineranno verso il tuo personaggio. Tu con dei tiri di dadi dovrai gestirti, diciamo, la sopravvivenza, dovrai resistere più degli altri nella tua ubicazione. Il problema è che tirando i dadi possono uscire combinazioni che possono generare spawn di zombie, che possono farti trovare carte aggiuntive che possono essere seguaci ma che portano dei rischi. Per esempio, c'è il seguace che potrebbe essere infetto e potrebbe trasformarsi se fai una certa combinazione di dadi. C'è la cheerleader che vale un sacco di punti ma ti fa arrivare più zombie ogni turno perché continua ad urlare. E si chiama Run Fight or Die perché c'è una meccanica nella quale se tu tiri una certa combinazione potresti essere circondato dagli zombie, dopo devi decidere se scappare e fare un certo tiro di dado oppure combattere e eventualmente morire. È un gioco semplicissimo, probabilmente durerà una mezz'oretta, non è grande, ha una scatola media, abbastanza piccola. Il difetto è che ha un prezzo molto elevato, e infatti è per questo che ancora non ce l'ho, perché è proprio uno degli ultimi della wishlist, perché costa veramente troppo per quello che è, 50 euro più o meno, perché ha delle miniature ma che sono praticamente inutili per il gioco. Ma per il resto ha una buona comicità, ha una meccanica interessante, è un gioco che non è troppo impegnativo e può essere divertente perché comunque ha una sua comicità che però non è imposta in modo estremo, ma che tu puoi vivere tranquillamente. Questo è Run Fight or Die. Ok, come sei stato veloce e esplicito. Sai dirsi anche quanto costa più o meno? L'ho già detto prima. Ah, scusami, purtroppo costa intorno ai 50 euro, che è il motivo per cui io ancora non l'ho comprato, perché mi sembra veramente troppo per quello che è. Probabilmente per le miniature, ma le miniature sono praticamente inutili nel gioco, potevano essere rimpiazzate da qualunque cosa. Ok, invece tocca a me. Il mio prossimo gioco è un gioco annunciato, non ancora uscito, e di un creatore, di un game designer che conosciamo tutti bene, visto che in ogni nostro episodio viene nominato ormai, ed è... Bruno Catala. Catala, non fai tutti. È l'altro Bruno. Ed è il gioco Yamatai, gioco che uscirà nel 2017... per la Days of Wonder, quindi possiamo anche già prepararci per un'edizione di alta qualità, visto che la Days of Wonder cura veramente bene i giochi che produce. Allora, Yamatai praticamente... Sì. Cosa? Sì. Sì, no, è che non mi diceva nulla, poi io quando ho visto la copertina ho capito che gioco, adesso okay. Lo conosco. Allora, Yamatai praticamente c'è questo arcipelago formato da tante isole, ogni isola è una possibile... piana per costruire edifici e ogni isola ha una produzione di materie. Di base il gioco è uno scelta ruoli che ricorda un pochino i Cyclades, sempre del caro Bruno, perché i ruoli vengono pescati a caso da una pila e quindi non sono sempre tutti disponibili, sono disponibili a turni alterni. A seconda del ruolo che viene scelto ci sono capacità diverse di movimento delle navi, e le navi a seconda dell'isola che toccano possono fare cose diverse, perché è un gioco che si basa sui colori e il colore della nave in base al colore dell'isola dà capacità di raccolta risorse o di costruzione edifici. Quindi di base il gioco è uno scelta ruoli dove il tema è il commercio e l'edificazione di edifici in questo arcipelago per il nostro impero, diciamo. Cioè, non sembra niente di entusiasmante detto così, però allora l'autore è un autore che raramente sbaglia. La grafica è molto bella, il sistema di gioco mi ricorda giochi che ho già provato che può piacermi, e quindi sono sicuro che a Yamatai, prima di comprarlo, sicuramente gli darò una prova, magari al Play di Modena, sperando sia già uscito. Sì, perché comprarlo alla cieca, questo mi sembra un po' esagerato. Che mi sembra molto più un German che un gioco più americano, questo. Sì, però non un German esagerato, dai. Un German è quasi un Cyclade senza la guerra. Sì. Andando invece ai difetti, il gioco tiene fino a 4 giocatori, e vabbè, non è sempre un male. E il costo però sarà elevato, perché costerà sulla 60ina di euro. Comunque è una scatolona bella grossa. Però non lo so, mi convince perché mi ricorda quel genere di giochi che mi piace. Quindi non lo comprerei a scatola chiusa solo perché costa così tanto. Non so, a me sentire selezione di ruoli e commercio di navi fa venire in mente Puerto Rico. No, no, è completamente diverso da Puerto Rico. Ok. È solo la tematica che è simile, però è tutta un'altra cosa. Va bene. Ok, non hai altro da dire, no? Su Yamatai, no, a parte che la grafica è bellissima. E Sì. ovviamente essendo un gioco di Katara, in realtà non è proprio così. È giapponeggiante il tema, però non è vero. Beh, sì, ultimamente sì, invece. Sì, considerando, sì, ultimamente si è dedicato più a quel genere come Kanagawa. Tra lui e Bauza è tutto Giappone ormai. Vabbè, che male non fa, eh. No. No. Prego, Bene. Claudio, vai, puoi andare. No, non ho niente a dire contro. Allora, va bene, vogliamo rimanere sul tema? Questo è un gioco che è uscito nel 2015, però questo è fatto dai due Bruno, sia da Katara che da Faidutti. Cos'è? È un gioco da due. In copertina c'è un personaggio che può assomigliare, volente, può assomigliare molto probabilmente a Bruno Katara, quindi probabilmente è fatto apposta. Il gioco si chiama Raptor. È un gioco dove si sono asimmetrico, dove un giocatore ha un ruolo, l'altro ne ha un altro completamente diverso, e dove uno dei due giocatori è un gruppo di scienziati che deve catturare per studiare dei cuccioli di Raptor. L'altro giocatore è la famiglia di Raptor con la madre e i cuccioli che si devono radunare. E la madre può mangiarci anche i ricercatori. Mentre i ricercatori catturano con le reti Raptor cuccioli, la madre può mangiarci direttamente i ricercatori umani. Ok. Ed è un gioco per famiglie più che altro, perché è molto semplice, perché ogni giocatore ha un mazzo di, mi pare, 8, 9, 10 carte, dove la carta che tu giochi vale sia come potere, se non ricordo male, anche come iniziativa, credo, e fa effetti diversi. Hai delle bellissime miniature che si muovono su questa plancia, e ognuno dei giocatori ha due obiettivi diversi. Adesso non lo ricordo benissimo perché questo è da molto che nella wishlist, però è un gioco molto interessante perché io adoro i giochi da due, soprattutto quelli asimmetrici, come Sette Ronin, per dire. E niente, questo è molto interessante, ne parlano molto bene. Poi, se sono Katala e Faidutti, che sono due grandi autori, deve essere sicuramente un bel gioco bilanciato. E tutto qui. Tutto qui, velocissimo. Raptor è uscito l'anno scorso, no, 2 anni fa ormai perché è 2015, no, 2016, l'anno scorso, e costa 25 euro più o meno. Sì, questo qui ha un prezzo abbastanza buono per quello che contiene, comunque ha anche un po' di miniature, dai. Si può stare un gioco di carte con una plancia delle miniature, quindi è un prezzo abbastanza buono. La copertina. Perché? Sì? Perché ho visto sia la copertina dell'edizione Pegasus Peel che quella della Matagot. Quella della Matagot è bellissima. Dove c'è Bruno Catala con Raptor in mano. È molto bella quella copertina. Invece nell'altra c'è solo l'occhio del Raptor tra i cespugli. Ok, andiamo avanti. Quindi tocca di nuovo a me. Ok, allora, questo gioco. In realtà, di cui sto per parlare, ricordo un gioco molto più popolare, molto meglio distribuito, che è Rino Ercolino, un gioco della ABBA Sì. in cui i giocatori devono costruire un grattacielo di carte senza farlo cadere, e in cui alcune carte hanno anche dei malus, ad esempio dovere mettere un meeple di legno sopra al piano appena piazzato e cose simili, quindi è un gioco di abilità. Questo gioco è molto simile e si chiama Japanese Castle. È un gioco del 2012 da 1 a 4 giocatori che sembra introvabile. L'ho cercato su internet da comprare e fuori dall'America non si trova. Tra l'altro, Board Game Geek vedo che l'ha anche distrutto a livello Di critica? di voto. Sì, ha un voto bassissimo. Un voto che si meriterebbe Zombie 15, non questo gioco. Beh, te lo spiego subito qual è il motivo. Se vai a vedere nei rating, è stato votato più o meno da una ventina di persone. Quindi questo spiega molto. Cioè, se tu ci guardi su 20 persone, 10 è andato un voto basso. più o meno in questo senso. E quelle che gli hanno dato un voto abbastanza alto, gli hanno dato 6 più che altro. Comunque il quindi, gioco... sì, è un fattore di gusti, in realtà è poco conosciuto, è per questo che ha un voto basso. Sì, ha avuto una distribuzione ridicola. Il creatore del gioco è russo, tra l'altro, quindi... Diciamo che in Russia ancora il mercato dei giochi da tavola è molto diverso, più che altro è chiuso, perché già una volta mi era capitato di incontrare una casa di giochi di miniature e giochi da tavolo per bambini che fuori dalla Russia non si trova, in questo momento scusate non mi ricordo il nome, ma faceva anche dei kit veramente belli di miniature per iniziare, per i bambini, ma fuori dalla Russia non si trova. Purtroppo è così. E niente, questo Japanese Castle è quello che ho detto prima praticamente. È un gioco di abilità dove i giocatori si sfidano a costruire questo castello di carte senza farlo cadere. A turno ognuno piazza la sua carta e si cerca di fare un castello più alto possibile, tenendo conto delle regole di piazzamento e giocando con la variabile delle carte speciali, anche con i poteri speciali delle carte che vengono piazzate, quindi rendendo più difficile ancora il gioco. Sembra, cioè non so, a molti dei nostri ascoltatori e a molti gamer questo gioco sembrerà una sciocchezza, a me sinceramente piace molto. Probabilmente anche perché è un castello giapponese, se fosse stato qualcos'altro forse mi avrebbe attratto di meno. Ad esempio Rino Ercolino mi piace tanto, però se fosse stato Rino Samurai mi piacerebbe di più. Ma sai, cioè, è un concetto un po' spicciolo, cioè, se non sono proprio regole particolari, adesso non lo conosco il gioco, però se è semplicemente fare un castello di carte senza poteri, mi sembra un gioco un po' così, No, no, ci un sono i po' poteri, vuoto. l'ho appena Ok, l'ho detto. ok. Se non ci fossero i poteri non avrebbe alcun senso, perché sarebbe, cioè lo giochi con le carte che prendi al bar, cioè. Ok, è tutto qui. Vorrei poter dire più di questo gioco, ma a parte il fatto che è uscito nel 2012 in un'edizione con probabilmente anche poche copie, non trovo nulla, proprio è un gioco difficile da trovare purtroppo. Ma sai, sentendo queste wishlist si vede la differenza. Tu sei molto giochi di nicchia, ma molta nicchia. Proprio Sì. giochi sconosciuti. Io sono miniature. Sì, Se ci guardiamo. sicuramente nella nostra wishlist non c'è Festa per Odino, non c'è Sight, non c'è Lorenzo il Magnifico. Sì, allora, quello è anche un discorso di gusti. E poi comunque sono giochi facilmente reperibili e che tutti conoscono. E comunque, sai, perché mi spiego meglio. Se io volessi Sight, probabilmente ce l'avrei già. Cioè, i giochi della wishlist sono giochi che o vorresti ma non hai perché costano parecchio o perché magari fai fatica a reperire o perché magari hai provato una volta e non hai più avuto modo di rigiocarli. Però giochi di questo genere noi li vediamo tutte le sere. Sì, infatti, cioè, perché dovrei comprare Lorenzo il Magnifico quando nella situazione in cui vado a giocare ce n'è una copia ogni due persone, praticamente. Esatto, e basta chiederlo e lo giochi. Ho trovato il sito dell'editore di Japanese Castle e il gioco costa 20 dollari, non costa neanche tanto. Il sito si chiama Rare and Unique Rubrand e vende anche altre cose particolari. Niente, tutto qui. Ma $20 potrei anche farci un pensiero più avanti quest'anno. Piacerebbe averlo. Va Più che altro diciamo che io principalmente preferisco giochi con le miniature perché mi piace molto dipingere. E infatti attualmente per voi ascoltatori, anche se può non essere interessante, sto dipingendo una copia di Blood Rage che vedremo a breve, probabilmente, nelle nostre serate associative completamente dipinto. Bene, andiamo avanti. bene. Quindi, prossimo gioco è un gioco del 2016 con miniature. Giocato una sola volta, mi è piaciuto molto, nonostante abbia unito due cose che non sono tra le mie preferite, in realtà è riuscito a convincermi, anche per la sua grande difficoltà e perché è un gioco cooperativo. E più un gioco cooperativo è difficile ma non troppo devastante, più è interessante per me. Si tratta di un gioco ammirato molto dal nostro presidente, ed è Pandemic Regno di Cthulhu. Ok? Allora, io non sono un amante di Pandemic. E neanche di Sinceramente, Cthulhu. e neanche di Cthulhu. Perché Pandemic è una meccanica carina, però ho giocato molti cooperativi e non è tra i miei preferiti. Non sono un amante di Cthulhu perché né Eldritch Horror né Arkham Horror sono tra i miei giochi preferiti e li gioco se è proprio necessario. E in più Cthulhu dopo un po' ti dà la noia perché lo vedi dappertutto. Tuttavia, nonostante qui ci sia di mezzo lui, la componentistica e la meccanica che vengono aggiunte grazie a questa ambientazione rendono la meccanica di Pandemic più interessante, perché qui avremo dei cultisti che continuano a convertirsi più che malattie, che si spostano, che evocano dei mico, queste creature, ed è molto più stretto e complesso di Pandemic. È una plancia molto più piccola, ogni giocatore ha un ruolo come in Pandemic, ma ovviamente a tema Cthulhu. E se non ci sbrighiamo, si sveglieranno più antichi, e questi vari antichi avranno effetti sempre più negativi. Alla fine, quando si arriverà a rivelare Cthulhu, sarà finita per tutti. Inoltre, ci sono molte condizioni di sconfitta in questo gioco, e c'è tipo solo una di vittoria. La cosa che riprende Pandemic più che altro è il girare per le città del mondo di Cthulhu, quindi Arkham, Kingsport e così via. Probabilmente il motivo per cui lo apprezzo di più non è tanto le miniature, ma che è un cooperativo da 2 a 4 giocatori, quindi un numero abbastanza contenuto che però incide anche sul minutaggio e che si può giocare in una buona mezz'ora, perché anche si può perdere molto facilmente o comunque il gioco non dura tantissimo, perché si basa anche molto su un mazzo di carte che non deve finire principalmente. Però il concetto è cioè, abbiamo preso la meccanica di vari Arkham Eldritch, cioè chiudere dei portali, ma l'abbiamo messa nel mondo di Pandemic. Praticamente il concetto è questo qui. Però, a questo pregio, a me Pandemic dopo un po' mi annoia perché dura un'oretta e mezza, questo dura solo mezz'ora. Al contrario di tutti i giochi ambientati nel mondo di Cthulhu. Ok. Presto dovrebbe essere 30-35, se non ricordo male. Che è anche contenuto, considerando Sì, quanta è roba un c'è. buon Poi, presto anche perché ha parecchie miniature. essendo Asterion, è facile da reperire anche nei negozi di giocattoli e compagnia bella. Ed è molto semplice perché a livello di regole è come Pandemic, quindi si può spiegare anche abbastanza tranquillamente. Bene. Allora, quindi, visto che tocca a me, io finalmente parlerò di Vintage. Allora, se una volta nella mia wishlist c'era Battle Master, adesso ci possiamo mettere il check sopra perché ce l'ho, e anche Dungeon Quest edizione GW, anche lì il check ce l'ho, è rimasto da recuperare del vecchiume Vintage che mi interessa, Blockmania. Sì. E in questo momento mi sfugge il nome, e Dark Future, soprattutto Dark Future. Allora, probabilmente se possedessi una copia di Blockmania non ci giocherai mai. Però è bellissimo lo stesso. Cioè, è che il gioco è bellissimo. Però, boh, cioè, allora, cos'è Blockmania? Per chi conosce l'universo di Judice Dredd, è molto semplice, praticamente. È una lotta tra le gang che capeggiano i block. Per chi non conosce questo universo, invece, fate conto che in un futuro ci sono soltanto delle mega città, poche mega città in tutto il mondo, dove tutta l'umanità si è radunata perché il resto del pianeta è inabitabile. Quindi queste città contengono milioni e milioni e milioni di persone. Per mantenere l'ordine in queste città alveare dove gli edifici si sviluppano verso l'alto e contengono tantissime persone, è stata creata la forza dei giudici, ovvero questi vigilantes, questi poliziotti che praticamente hanno la possibilità di poter agire come meglio credono quando devono fermare i banditi. E in questo ambiente, in questa città, ci sono gang di criminali che si affrontano e si fanno la guerra per poter ottenere il controllo degli edifici. Blockmania, appunto, noi abbiamo il nostro block, il nostro edificio alveare e la nostra gang. Gli edifici dei giocatori sono messi adiacenti ortogonalmente, quindi noi saremo sempre, ad esempio, in una partita a tre giocatori, avremo un giocatore alla nostra destra e un giocatore alla nostra sinistra, mentre in una partita a quattro giocatori avremo uno a destra, uno a sinistra e uno che non possiamo raggiungere. Anche se per giocare in più di due giocatori serve l'espansione. Adesso che ci penso, l'espansione fa arrivare il gioco fino a 4. E comunque il gioco semplicemente è una gara a danneggiare il più possibile i blocchi degli altri, perché praticamente il nostro scopo è far scendere di valore i block avversari, attaccandoli con i membri delle nostre gang, facendogli graffiti sopra e cose simili. E inoltre, a un certo punto del gioco, potrebbero arrivare i giudici e fare strage dei banditi che trovano sulla loro strada. Allora, il gioco, essendo un gioco della Games Workshop dei primi anni 90, anzi della fine degli anni 80 e 87, più vecchio di me, ai materiali appunto economici che utilizzava la Games Workshop in quel periodo, quindi trovare una copia messa bene è difficile. In più, messa bene per gli standard moderni dei giochi da tavola vuol dire anche ritrovarsi dei materiali di bassa qualità, perché veniva usato un cartone per queste scatole che non era proprio ottimale, si sfogliava facilmente. E anche i materiali del gioco non sono proprio dei giochi Games Workshop, non sono proprio il plus ultra. Inoltre, essendo un gioco mai ristampato e che ha 30 anni, il prezzo va dai 80 in su, e anche l'espansione si aggira su prezzi altini, considerando che è solo un'espansione. Non so, forse se ne avessi la possibilità un giorno lo recupererei, però non è essenziale come Dark Future, che invece è un gioco che vorrei avere a tutti i costi. Però Blockmania ha il suo appeal, non sei d'accordo? Soprattutto per le copertine dei giochi di quel periodo sono le più belle di sempre. Sì, no, allora, gli illustratori della Games Workshop di quel periodo erano i più bravi di sempre. Cioè, ci sono dei dettagli in certe scene che sono fenomenali. Già. E vabbè, abbiamo parlato di Games Workshop Vintage e di Giudice Dredd, e quindi andiamo avanti, Claudio. Va bene, vogliamo andare su roba vecchia. Anch'io sono uno un po' vecchiotto del 95. Ah, non è poi tanto vecchio. Vabbè, adesso Dai, io. Vabbè, tu eri dell'87, dai. vabbè. Ah, hai detto 95 o 85? 95, Ah, dai. 95. Allora, questo è un gioco sempre di Faidutti, tra l'altro. Non Catala, sto giro Faidutti. Pubblicato da Days of Wonder, Giochi Uniti e così via. Dopo dipende da noi, da Giochi Uniti, se non ricordo male, perché è in Italia. Allora, se non sbaglio dovrebbe avere anche una seconda edizione. È il mistero della Bastiglia il gioco. È un gioco di deduzione, religiosità, movimento, dadi volendo, è un set collection anche. Cioè, uno di quei giochi simili a Cluedo, ma molto molto più interessanti, perché dà molto la recitazione anche, dove ogni giocatore sa che c'è un personaggio che non è l'assassino, bene o male, e deve scoprire che è stato a fare un omicidio, e quindi devi iniziare a scartare i possibili sospetti e riuscire ad arrivare prima degli altri a capire chi è stato e a ovviamente confessare, cioè a scoprire chi è stato l'assassino. E quindi noi abbiamo questi monaci che girano in questa enorme abbazia, dove ogni stanza ha un potere differente e addirittura si può anche interagire con gli altri sfruttando il loro modo di muoversi. Ad esempio, se si ferma un giocatore nel giardino, gli si può fare qualche domanda sulla sua mano di carte, ma ovviamente in tema, per dire: lei oggi ha mangiato molto bene, per chiedere se ha delle carte di qualche monaco che era sottello in mano. E lui deve ovviamente rispondere sinceramente. Se si può infilare nella camera di un altro giocatore per guardare una carta che ha in mano. Non ci si può andare nel confessionale. Ci sono tante cose interessanti in questo gioco. Ha una grafica veramente divertente, molto cartonesca, bella. Questi monaci pacciocconi di varie scuole. Poi i nomi: Bruno, Sergio. Questi bei nomi di. Vabbè, insomma, ha una grafica simpatica. È semplice. Sembra molto divertente. Da 3 a 6 giocatori. Probabilmente dura un'oretta e passa, però. È un gioco che mi ha sempre intrigato. Costicchia un po'. 50. Era sui 50, sì, Un però cinquantone. non è complesso da trovare. Si può trovare facilmente questo. bene. Ah, ok, sì, anch'io sono sempre stato attirato da questo gioco della Days of Wonder. Soprattutto, ovviamente ho sempre visto l'edizione quella post 2000, quella degli anni 90, non l'ho mai vista. Esatto, infatti mi sembrava fosse stato perché quella vecchia aveva anche le miniature dei monaci, È molto uguali, stato cambiava il colore. ristampato sia nel 2007 che nel 2012. Ok. La Days of Wonder di solito fa così, si tiene le sue licenze e se vendono le stampa, cioè continua a rinnovare le licenze e ristampa. È un gioco che merita sicuramente. Poi è di Bruno, quindi Fai tutti. sì, dell'altro, però sempre Bruno. Io Bruno però, vabbè. Ok, adesso parlerò io di un gioco stranissimo. Visto che non ne abbiamo mai abbastanza di giochi strani. Allora, il gioco è Da Clash. Praticamente è un gioco di wrestling con questi mostri fatto da una casa di miniature. Infatti, il gioco da tavolo normale, diciamo, è un gioco da tavolo con gli standees e la plancia. Ma la stessa ditta, la Ammon Miniatures, ha fatto anche le miniature dei combattenti e le plance 3D per poter giocare. E sinceramente, ho sempre cercato un gioco di wrestling che potesse entrare nelle mie corde, essendo un amante di wrestling, e quello che ho sempre trovato non mi ha mai ispirato. Da Clash invece mi ispira, anche perché ha la componente da miniaturista. E i pezzi sono veramente belli. Non so se li stai vedendo, Claudio, adesso, in questo momento, le miniature No. di Da Clash, ma sono veramente belle. Ha uno stile, la Ammon Miniatures ha uno stile molto, molto carino. Allora, il gioco da tavolo costa una trentina di euro, quindi con una trentina di euro, cioè, anzi, 29 euro appunto, perché l'Ammon è francese, mi sembra. Con 29 euro sei a posto e puoi già giocare. Se ti stufi degli standees e vuoi espandere il gioco con le miniature, allora inizia a salire il prezzo perché ci sono combattenti che costano 8 euro e altri che ne costano 12, mentre il ring costa 25. Quindi diciamo che fare la versione da giocatore di miniature inizia a costicchiare. Mentre il gioco in sé costa poco, 29 euro mi sembra abbordabile. Per il resto, il gioco è basato sul lancio di dadi come King of Tokyo. A seconda delle facce dei dadi che hai ottenuto dal tuo lancio, puoi fare diverse azioni. Ogni lottatore in più ha mosse di diverso tipo, anche perché alcuni sono meno umanoidi degli altri. In più, per utilizzare alcune mosse c'è anche un metro, quindi sono anche mosse da sparo. Insomma, è un particolare gioco di arena wrestling con questi mostriciattoli che possono essere appunto intercambiati con le miniature dell'Ammon che hanno uno stile molto particolare, tipo da cartone animato o di Cartoon Network, se vogliamo. Tra l'altro, da Clash è stato fatto la versione gioco da tavolo è stata fondata tramite Indiegogo ormai anni fa. Quanti anni fa? Non lo vedo. 2013. Nel 2013 e ha raccolto 13.000 euro per poter venire alla luce. Ed è comunque si trova facilmente in Europa, anche perché è appunto un gioco europeo. Almeno, anche se non siete interessati, vi invito a dare un'occhiata alle miniature perché sono veramente simpatiche. Tutto qui. Ok. Bene, se vogliamo passare a giochi strani, ce n'è anche uno del 2013 che ha un titolo un po' stravagante e non sono ancora riuscito a trovare, però è un gioco veramente semplice per famiglie, ma non mi dispiacerebbe averlo proprio per questo motivo, anche perché io comunque molto spesso sono a giocare in famiglia o in altre famiglie, quindi mi servono questo tipo di giochi adatti a tutti. Questo si chiama Goblins Drool, Fairies Rule. Ah, sì. È un gioco sulle rime, è un gioco di carte dove dobbiamo gestire fate goblin che hanno nomi sulle rime. E quando tu riesci a andare in rima con un'altra carta, la devi ribaltare e dietro la fata diventa un goblin o un goblin diventa una fata. Devi riuscire a fare un set di una delle due tipologie, se non ricordo male. forse di fate, mentre di Goblin bisogna sbarazzarsene del tutto. È un gioco strano, però ha una sua simpatia. Semplice, ma a quanto pare molto difficile da trovare. Io riesco a trovare solo il puzzle dedicato al gioco da tavola, non il gioco in sé. Lo so che non ti colpisce molto il senso del gioco, però in realtà può essere molto particolare. No, sentendo così, in effetti non mi dice molto. Vabbè, ma costerà una decina di euro. Vabbè, sì. Ok. Prego. Ok, va bene. Allora io porto il mio ultimo gioco. E anch'io passo a un gioco già più per famiglie. Anche se è anche vintage, perché è un gioco del 90, nonostante sia stato ristampato più volte. Ed è Iglargrn, anche se in tedesco non lo so, spero di averlo pronunciato abbastanza bene. Iglargrn è la corsa dei porcospini, possiamo chiamarlo più semplicemente. È questo gioco di corse, se vogliamo chiamarlo così, in cui ogni giocatore ha i suoi porcospini del proprio colore, che vengono posizionati all'inizio partita tra le 6 file della plancia, e lo scopo è portare i propri porcospini dall'altra parte. Il gioco termina quando un giocatore non può più muovere porcospini, perché possono o arrivare in fondo oppure cadere nelle buche. Principalmente il gioco funziona tramite un lancio di dado che ti dice quale riga puoi attivare. Nella riga in cui attivi puoi muovere il tuo porcospino e anche quelli anche un avversario. E in questo modo puoi lanciare ad esempio i porcospini avversari nelle buche, e quelle buche a questo punto sono piene e quel porcospino non uscirà più. Una volta che la buca è stata riempita da un porcospino, gli altri ci passano normalmente come se fosse una casella piena. E inoltre i porcospini che sono bloccati sotto un altro porcospino non possono muoversi, quindi i porcospini avversari possono essere usati anche per bloccare altri porcospini avversari salendoci sopra. Il gioco è tutto qui, semplicemente muoversi avanti e ostacolare gli altri con questi movimenti che bloccano o fanno cadere nelle buche. È un gioco che mi piace tantissimo, velocissimo e appunto, come dicevo prima, è del 90, quindi ha i suoi anni. Tra l'altro c'è anche un'edizione Double Game in cui nella stessa scatola c'è sia Iglargrn che Tante Tarantel che non conosco invece, però l'editore che è la Zuk, mi sembra. No, è la Doris e Frank, ha unito i due giochi assieme, quindi al modico prezzo di 35 € c'è sia Iglargrn che Tante Sì, Tarantel. sono gli stessi autori che hanno pubblicato il gioco. Mentre Iglargrn in versione solitario ormai non si trova più, perché esiste solo questa versione Double Game, cioè se si trova è perché è un fondo di magazzino comunque usato. Bin bin. Io direi che puoi dire il tuo ultimo gioco, poi ho un paio di cosucce da dire e poi possiamo andare in chiusura. Va bene, chiudiamo in bellezza. Se la settimana scorsa ho chiuso con un grande gioco come Mansion of Madness, questa sera chiudiamo con un altro grande gioco del 2016, che prima o poi sarà nella mia collezione, più poi che prima, ma ci sarà. Ed è un gioco che conosciamo tutti perché ha avuto diciamo che ha avuto un buon impatto nell'ultimo anno. Questo è Cry Havoc, grande gioco di area control di battaglia, quattro fazioni tutte diverse. No, è anche simmetrico. Sì, dove abbiamo, se non ricordo male, una fazione tipo di mutanti, una fazione umana, una fazione tipo simil troll, una fazione tecnologica, quindi di droidi, che si devono ovviamente contendere questa sorta di pianeta e le sue risorse. La particolarità di questo gioco, che ha sorpreso tutti, a parte le belle miniature, è la meccanica della battaglia, che si divide in varie fasi, dove tu devi decidere se potenziarti di più in una certa fase, magari in quella di sparo, o in quella di quanti numeri di prigionieri tu hai fatto. Quindi tu potresti anche perdere una parte della battaglia, ma aver ottenuto più punti perché magari ti sei portato a casa più prigionieri, nonostante tu sia stato sconfitto. Dopo dipende dalle varianti. Io non l'ho mai giocato, ma mi ricordo che mi colpì molto la spiegazione di questa meccanica della battaglia, che è divisa tipo in quattro fasi, dove tu segretamente piazzi le unità in modo equo poi dipende da te, in certe fasi di questa battaglia. E dopo si sveleranno e si attiveranno tutte, dovrebbe essere una cosa simile. E questo incide molto su giochi di questo genere, perché è un gioco dove la battaglia è una delle cose principali. In più c'è questa strategia sul muoversi della mappa. Se si gioca in meno di 4, la fazione dei troll saranno dei mostri che agiranno per conto loro nella mappa. Ha una componentistica meravigliosa. Sì. Il prezzo è quello che è, perché ha il suo perché, dovrebbe essere sui 60 euro, penso. No, 75. Però 75, ok, sì. Però comunque al suo per sé costa 5 euro in meno di Blood Rage, più o meno, diciamo. Infatti se costava 60 euro come dicevi tu era strano. Sì, adesso da un po' che non ci guardo. Però è sicuramente un gioco particolare. Ha avuto un buon impatto, non è stato uno dei più apprezzati, però è stato sicuramente apprezzato negli ultimi anni, ma sicuramente mi ha colpito. Beh, negli ultimi anni sicuramente è del 2016. Sì. Dell'ultimo anno hanno fatto Spyfall 2. Vai pure con le tue. Sì, lo so, non sei un anti Spyfall, però sì, sapevo che era uscito il 2 adesso. Beh. Va bene, ok. Certe cose rimarranno un mistero. Vabbè, quello che volevo dire io invece è, sempre parlando della wishlist, c'è un gioco, l'ultimo gioco della mia wishlist che ho acquistato, che è un secondo, Deus Vult, ecco, della Rose Poison Game, un gioco del 2005 abbastanza raro che volevo da tanto tempo. E l'altra cosa invece è un gioco dalla mia wishlist che ho depennato perché ho cambiato idea sul fatto che lo volessi, ed è Last Friday. Ah sì, dopo che te ne ho parlato. Un gioco che sembrava molto promettente, soprattutto per me che sono un amante dei film horror, e che invece si è rivelato essere poco divertente, almeno da quello che si può vincere, anche se una partita non ce l'ho fatta. Si è rivelato Whitechapel con delle regole che cambiano alla fine di ogni turno praticamente. E Sì. anche la componentistica è abbastanza spicciola, cioè non è proprio fantastica. Non sto a dare valutazioni, anche perché non ci ho giocato. Magari No, certo. al play una partita penso che potremmo farcela. Però Però devo dire. sicuramente sì, cioè la copertina attira, però quando vai a vedere la componentistica ci rimani male. Cioè Non. trovi i pedoni cioè i pezzi del gioco dell'oca, dai. E il mio problema non è la componentistica, è la meccanica. Mi aspettavo qualcosa più da film, cioè qualcosa di diverso. La meccanica non mi ha convinto. Cioè, non come è fatta, perché non ci ho giocato, le meccaniche scelte. Però una volta che l'avrò provato al play, potrò dire di più. Certamente non bisogna giudicarlo così senza averlo giocato completamente, però il fattore scenico comunque ha il suo impatto, cioè quando tu vedi la plancia rimani un po' ma. Ma in realtà, cioè, io lo voglio provare, però se Sì. prima questo gioco era un appena esce lo compro, adesso prima lo provo, poi lo compro. E poi forse lo compro. Sì, adesso comunque anch'io non l'ho mai giocato, però ho visto come funziona. Va bene. Ok, era questo che volevo dire. Due notizie, due sul mondo dei giochi da tavola. È uscito, hanno fondato su Kickstarter il nuovo gioco di Rainer Knizia, Khan of Khans, e sempre su Rainer Knizia, uno dei suoi giochi storici, Ingenious, ha dovuto cambiare nome Ah, sì. perché i diritti sul nome Ingenious li ha pagati un'altra casa, e quindi è stato rinominato a Axia, mi sembra. Aspetta che ci guardo. Adesso l'edizione italiana non dovrebbe avere problemi perché si chiama Geniale. Ma poi più che altro, cioè, le copie già uscite rimangono uguali, però Sì. adesso, da adesso il gioco si chiamerà in altro modo, adesso ve lo dico appena lo vedo. Pa, pa, pa. Axio, è stato rinominato Axio. Soprattutto anche la versione online del gioco, che è quella che creava più problemi a livello legale, perché quella comunque doveva essere, essendo una versione vivente, essendo online, il nome doveva essere cambiato, e quindi il gioco è stato annunciato ufficialmente che d'ora in poi si chiamerà Axio, perché il nome Ingenious è stato comprato dalla, Dalla Sophisticated Game. Tutto qui. Una curiosità, dai, una curiosità di perché un gioco ha dovuto cambiare nome. Tra l'altro, Sophisticated Game è una casa di giochi da tavolo, quindi esiste, e uscirà un altro gioco da tavolo chiamato Ingenious, a quanto pare. Ok, bene, abbiamo detto quello che c'era da dire e direi che anche per questa settimana possiamo salutarci qui. Potete venire a trovare tutti i venerdì al Bar President, la nostra sede a Forlì di Area Games, dove dalle 9 di sera tutti i venerdì si gioca fino alle 2, ai giochi da tavola che portiamo da casa, e da noi nessuno rimane in piedi. Se venite, qualcuno vi spiegherà un gioco, vi metterà a giocare e così. E così via. Bene. Anche per questa settimana possiamo salutarci qui, con alla conquista del gioco è tutto. Ciao a tutti! Ciao a tutti, buonanotte.